No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Bentornati, bentornati in questa domenica soleggiata con le ribelli. L'appuntamento della domenica su Radio ZM. Con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Bentornati, bentornati, bentornati. Oggi abbiamo un'altra delle nostre bellissime puntate, bella impegnata anche quest'oggi, perché parleremo di discorsi d'odio con un ospite ormai che viene spesso adesso con noi ed è una volta venuta, Giulia dice, ed è Vera Gheno. E in introduzione con me c'è da Edimburgo Giulia, saluto. Ciao a tutte, tutti, tutto. E tutto. E Gioia, Gioia in regia. Sì, oggi funziona solo un microfono. Ah, quindi ecco. Ciao. Ciao Gioia. Bene, ma entriamo subito nel fulcro della nostra puntata, anzi no, prima mi fanno segno che devo leggere i nostri canali, perché dobbiamo sempre ricordarli. Quindi vi ricordiamo che prima di tutto, se volete scriverci, avete delle domande, potete scriverci alla chat di Telegram, che è @radiozam_chat, oppure sulla nostra pagina delle ribelli Instagram, che sono le_ribelli_zam. E inoltre vi ricordo i canali della Radio Zam Milano Sud, che è appunto Radio Zammi Sud, e il canale Facebook, che è Radio Z-AM. Dovrei averli riaccordati tutti, giusto? E vi ricordo anche che per riascoltarci e seguire i nostri podcast ci potete trovare in su Archive come Radio ZM e sul sito di ZAM. Ok, dovrei aver finito, basta, è un elenco lunghissimo. È stata bravissima. È stata bravissima, incredibile. E niente, entriamo quindi nel fulcro, io vi introduco un po'. Ricordiamoci appunto che è importante, ormai chiaro, che la società nel suo complesso si sia resa conto dell'esistenza di un problema d'odio generalizzato. Ed è innegabile che si stia lavorando un po' a tutti i livelli per tentare di arginarlo e circoscriverlo. Ma è altrettanto importante essere consapevoli che non si può demandare la gestione dell'odio sempre solo agli altri. Bisogna conoscerle l'odio per poterlo gestire, non semplicemente cercare di eradicarlo o respingerlo come se fosse altro da noi. Per questo abbiamo voluto invitare oggi Vera Gheno, che ricordo, per chi appunto non dovesse aver ascoltato il podcast o seguito la scorsa puntata con lei, è una sociolinguista che si occupa appunto anche del discorso d'odio nel digitale, ecco, e nel web e quant'altro, anzi, ma adesso diamo la parola a lei perché io ho già parlato troppo e quindi introduciamo Nena e Giulia anche. Okay. Anch'io ci tengo a ringraziare Vera per essere qua. Lei, appunto, come diceva Andrea, essendo specializzata in comunicazione digitale, mi sembrava una delle persone più adatte per aiutarci ad affrontare questa tematica. Ci tengo anche a ricordare, essendo parte anche della mia professione, che è traduttrice dall'ungherese. Scusate, l'avevo stimatissima professione di traduzione che io sostengo. E Vera ha parlato tanto di discorso d'odio anche sui suoi social. Personalmente, sia io che Andrea siamo andati a leggere vari articoli, varie interviste che hai rilasciato, e credo che tu sia la persona adatta con cui parlare di queste cose, perché da sociolinguista tu stai all'interno di questo sistema. Cioè, tu la cosa che apprezzo io, ma non solo io, penso tutti coloro che ti seguono, è il fatto che tu ci racconti di queste cose, discuti di queste cose perché le vivi dall'interno. Uh-huh. Quindi sei un'esperta non soltanto del guardare la società dall'esterno, la società, diciamo, digitale, ma la studi da dentro, e questo penso che sia un punto di vista fondamentale, importantissimo. Se sei d'accordo, inizierei con la prima domanda, che in realtà sono tre domande, e quindi una domandona. Ecco. Ok, va bene, sì, sono a vostra completa disposizione. Intanto grazie di avermi qua. Io lo dico già in apertura, mi appoggerò pesantemente a un libro, a un'opera di uno stimatissimo collega che da più tempo di me in realtà si occupa di discorsi d'odio, che è Federico Faloppa, che è un linguista che lavora all'Università di Reading e che da almeno 25 anni si occupa soprattutto di xenofobia, di razzismo in senso più stretto, e ha scritto questo bellissimo libro che consiglio come lettura a tutti quanti, a tutte quante, che è Hashtag Odio, manuale di resistenza alla violenza delle parole, che è uscito per UTET alla fine, nell'autunno del 2020, quindi è anche molto molto fresco. Citerò spesso lui perché la sua, come si può dire, riflessione è senz'altro quella più aggiornata al momento. Poi ci metterò del mio, perché effettivamente ci sono delle cose per cui io sono un po' più addentro a alcune dinamiche, soprattutto in quanto donna e in quanto donna social. E quindi c'è un pezzettino in più rispetto, o un pezzettino in più, un pezzettino diverso, ecco, rispetto, sì, a tutto quello che dice Federico, che è come vivere l'odio in qualità di donna che si espone, sì, sui social network. Ok, questa era l'intervista. Tra l'altro ti ringrazio per appunto averci girato il titolo in settimana, perché è proprio dal titolo di questo libro che abbiamo preso spunto per il titolo della puntata, La violenza delle parole, l'impatto. Quindi in realtà non ci siamo inventate niente, perché se qualcuno lo dice meglio, infatti, guarda, se qualcuno lo dice meglio, perché fare il doppio sforzo, no? Quindi Newton diceva che bisogna arrampicarsi sulle spalle dei giganti, facciamo questo. Giustamente. Allora, penso sia fondamentale iniziare a capire che cos'è il discorso d'odio, in inglese hate speech, se questo cambia in base al destinatario, o meglio chiamata appunto alla vittima, o possiamo trovare delle caratteristiche comuni, e poi domanda fondamentale, chi sono gli haters? Uh-huh. Vabbè, queste sembrano le domande, quelle introduttive degli esami, no? Quando, esatto, vuoi mettere a suo agio l'esaminando, subito, che gli chiede una cosa larghissima. Deformazione, allora, professionale. Mi allora è stretta. Traggo subito dalla definizione che riporta anche Faloppa subito nelle prime pagine del libro. Hate speech è una locuzione che più o meno significa discorso che incita all'odio o all'intolleranza, in particolare nei confronti di un determinato gruppo sociale sulla base dell'etnia, delle credenze religiose, della sessualità, eccetera. Non è un termine vecchissimo, perché ha origine nell'inglese americano dei primi anni 80. In Italia arriva più o meno negli anni 2000, no? E quindi diciamo che sono più o meno 20 anni che in Italia si parla di hate speech. Più o meno surrettiziamente tradotto appunto linguaggio o discorso d'odio. Distinguiamo due cose. Allora, una cosa è il discorso d'odio diretto, cioè odio qualcuno e lo esplicito tramite le parole. Una cosa anche più grave è questa menzione, che c'è anche nella definizione stessa, all'incitamento, per cui io non solo insulto una categoria, ma la insulto in modo da incitare altri a insultare quella stessa categoria. La categoria, il recipiente d'odio, no? Cioè il ricevente dell'odio, il destinatario, ovviamente è vario, il più vario possibile, perché qui si fa riferimento esplicito all'etnia, alle credenze religiose, alla sessualità, però possiamo metterci di mezzo anche le disabilità, le neurodiversità, caratteristiche fisiche anche indipendenti dall'etnia, e quindi possiamo anche inserire il fat shaming, no? E quindi tutto il discorso dello stigma legato all'aspetto fisico, al peso, oppure il cosiddetto slut shaming, che è quello riferito a comportamenti sessuali considerati non irreprensibili, ovviamente soprattutto femminili, ma non solo. Ci possiamo mettere appunto l'omosessualità, l'odio nei confronti dei transgender, eccetera, l'odio nei confronti dei bambini e nei confronti dei vecchi, per cui c'è anche l'ageism, no? Quello appunto di insultare le persone per la loro età. Cosa che mi sono già beccata perfino io. Addirittura. Sì, cioè io non sono così anziana, cioè ho 45 anni, quindi vado sul maturo. Anche se oggi ho messo le codine da ribelle perché mi sentivo ribelle dentro, quindi mi sembra le codine, giusto. Le codine potete... da un po' frufru. Mi spiace che non potete vederla. Su YouTube una donna mi ha scritto: che poraccia che sei, che a 60 anni ti ritrovi ancora a fare ste robe. A riferimento al fatto che evidentemente posto 60 anni, per cui nessuno è salvo. Come vedete è una definizione assolutamente piovresca, multiforme, e il che, cioè la difficoltà di definire il discorso d'odio, è anche alla base della difficoltà a combatterlo, a contrastarlo, anzi, che non mi piacciono molto le metafore belliche. Come fai a contrastare una cosa che nemmeno riesci a definire bene? Sì. E questo si trasla anche sulla questione di chi sono gli hater, chi sono gli odiatori. Nelle dinamiche di odio accade una cosa piuttosto comune che viene chiamata distanziamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che le persone, quando parlano di odio, tendono a escludersi dalla compagine di coloro che odiano, cioè quando noi parliamo di hate speech, al massimo ci vediamo come vittime o potenziali vittime, no? Come donna di una certa età, come donna che si espone sui social e così via. In realtà, e questo è il distanziamento orizzontale, no? Per cui gli hater sono sempre gli altri. Quando io vado a fare ogni tanto corsi di educazione digitale, diciamo così, nelle scuole, la cosa che mi colpisce sempre è che si parla tantissimo di hater e di bulli, ma cyberbully o bully, ma sempre riferimento agli altri, no? Quindi come difendersi dai bully, come difendersi dagli hate. L'altro tipo di distanziamento è quello verticale, ossia non sono io che devo contribuire in qualche modo a togliere le castagne dal fuoco dell'odio, ma sono i big player, no? I grandi giocatori, e quindi deve essere Facebook, Google, il governo, la polizia, la scuola, no? Tutto grande, tutto mega. Sì. In realtà in tutti e due i casi viene fatta un'operazione un pochino vile, chiamiamola così, perché nel distanziarci orizzontalmente e verticalmente dal problema dell'odio, alla fine dei saldi non facciamo nulla a livello personale, no? Perché non possiamo farlo noi non siamo hater e il problema è troppo grosso, quindi alla fine non facciamo nulla, stiamo lì fermi perché il problema ci riguarda ma solo indirettamente. Allora, chi sono gli hater? Potenzialmente gli hater siamo tutti. Cioè tutti noi possono in un incrocio di situazioni diventare odiatori, tutti noi possiamo diventare odiatori e odiatrici, quindi non è una cosa di genere, sia maschile che femminile, sia odiatore, quindi tutto il resto. Il punto è che nel momento in cui ci rendiamo conto che c'è un animale odiatore in ognuno di noi, no? L'animale che mi porto dentro, come cantava Battiato, allora lì ci possiamo anche riappropriare della possibilità di evitare di essere hater, no? Cioè c'è certo. Una parte di me che istintivamente odia, perché la xenofobia, cioè l'odio per ciò che è alieno, diverso da noi, è ahimè biologicamente connaturato all'uomo, e come lo si supera? Lo si supera gestendolo, ma non negandone l'esistenza. Cioè, in ognuno di noi c'è questo pezzettino che va gestito. Ti è piaciuto certo. Il sermone, Giulia? Sono, secondo me, un 30. Ok. Allora, vediamo se arrivo alla lode. No, allora, dicevo deformazione professionale perché per chi conosce sono appunto una prof e a volte quando faccio le domande sono così. E, no, sicuramente è importante parlarne, è importante capire che potenzialmente chiunque può essere un hater, perché troppo spesso ci sentiamo sempre immuni da questa situazione, pensiamo sempre che solo gli altri siano così e noi invece siamo perfetti, invece questa cosa non è vera, bisogna stare attenti e attente e bisogna appunto ragionare. E torniamo anche un po' sempre al discorso che facevamo anche alla prima volta che sei stata con noi e anche a un tuo libro, al valore delle parole, all'importanza delle parole, perché le parole sono importanti e come dici tu su un articolo che ho letto, quando noi siamo ad esempio sui social o quando noi siamo su internet siamo solo parole e quindi queste hanno ancora più valore perché non abbiamo tutto il contorno. Ma poi penso, ditemi se sbaglio, che appunto questa cosa del prendere coscienza del proprio essere, di appunto reiterare questo linguaggio d'odio anche e non volendolo e rifuggendolo, no? Non volendolo accettare, arrivando a coscientizzarlo, chiaramente si va un po' come tutte le cose, no? Bisogna arrivare a prendere questa coscienza di sé e poi eliminarla, cioè fare qualcosa per migliorarsi, no? Sì. Sì, cioè fra l'altro ecco, il punto forse è che non è eliminabile, no? Cioè, certo. Fa parte del nostro, della complessità umana. Ecco, l'odio fa parte della complessità umana e come tale, prima di tutto occorre prenderne coscienza che c'è, cioè che non è che ci sono i cattivi e i buoni, e quindi solo i cattivi odiano. Cioè, un po' tutti odiamo, è che c'è chi gestisce questo istinto in maniera un po' più evoluta di qualcun altro. Però l'odio nei confronti di qualcuno è sempre la risultante di un malessere, no? Per esempio, sto male, ho meno soldi di prima, no? Che ne so, mi viene impedito di andare in giro liberamente, pensate ora a tutta la situazione, frustrazione, di confinamento, eccetera, eccetera. Prego? La frustrazione. Mi senti? Comunque, no, cerco qualcuno da incolpare della situazione incresciosa che sto vivendo. Se quel qualcuno è addirittura una categoria facilmente riconoscibile, beh, il gioco è ancora più semplice. All'inizio della pandemia, appena prima peraltro del lockdown, di quando siamo entrati nel lockdown, all'inizio del 2020, ero in una scuola qui a Firenze, una scuola, ero in una terza media, e era il momento in cui erano arrivati i primi cinesi infetti in Italia, mm-hmm. Non so se vi ricordate. Sì, e sì. Ci fu un'ondata di sinofobia, no? Cioè di odio proprio nei confronti dei cinesi, ci furono diversi episodi di cinesi a cui avevano sputato addosso a Roma e cose del genere. E in classe, fatalità, nella classe in cui ero, c'era un ragazzino cinese. E i suoi, ovviamente di seconda generazione, quindi parlava più certo. Toscano di me, cioè cinese solo di etnia, ma non certo di nascita né di cultura. Parlava tutto così, un po'. Immagino. E i suoi amici facevano: ma come si fa a essere così stolti? Non hanno usato questa parola, non mi ricordo, da pensare che siccome la malattia è scoppiata in Cina, occorre odiare tutti i cinesi, dato che ci sono tantissimi cinesi che peraltro non hanno mai visto la Cina, come questo certo. Bambino nato a Prato. E il ragazzino con grande chiarezza dice, vabbè, ma è ovvio, perché noi cinesi siamo riconoscibili. Quindi se ci vedi per strada è facile odiarci, lo riconosci subito, dagli al cinese, no? Per cui è ancora più facile odiare astrattamente una categoria, perché la categoria non è perfettamente umana, no? Cioè posso odiare l'immigrato, posso odiare il cinese, posso odiare l'africano, posso odiare la donna, senza scendere nel particolare della persona che odio, no? Quindi faccio un odio, applico un odio generico nei confronti di una categoria riconoscibile. Sicuramente. Bene, direi che possiamo mandare le prime canzoni. Sì. Riflettiamo un attimo. Anche due canzoni che ci sono a riflettere. Abbiamo in serbo una canzone molto particolare. Sì, ma molto particolare. Arriviamo ma dopo. La vedremo dopo. ringraziamo le DJ sempre per la playlist. Andrea, ci presenti le musiche? Scusate, ma vedo pochino. Allora, la prossima è Lady Leshar, Queen's Speech. Please don't stop for a chin wag. You need a tic tac. You will get broke up like a Kit Kat and then taken out like a bin bag. Because it's going down, low blow. So don't make me snap like a photo. Slow mo, I'll come through hooded up like Trayvon. All blacked out like Akon. I'ma come to your door like Avon and make you give me them notes like Trey songs. Mad ting, sad ting, like a Drake song. Everything's cool, payphone. I told you to change your panties, so why you still wearing the same ones? Bloody hell, no Sean Paul. I'm a bad gal, what you gonna do? Look, I got supporters in Cornwall and I know some ballers in Cornwall. Kickstart, wait. Why do girls love to do that pose? Are they your new trainers? What are those? Idiot gal, pick your nose and eat it gal. I am the realest gal, I am the realest gal. You ain't like Felicia, I'm a hurricane, yeah, and Katrina. English class didn't like the teacher, so I walked out like bad Felicia. Stay in school kids, they don't show no appreciation. Keep things short like abbreviation. All these girls are really hating. When their lips look like crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Your lips look like crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Their lips look like crispy bacon. Yeah. I'm on the grind, skateboard. I'ma go nuts, acorn. They try to take shots, paywall. But I'll cross when I want like a jaywalk. Pathetic. You're weave synthetic. If you think that you're gonna get past me, then you can forget it. Like, hello, do you hear me? I've been dying to let you know that you're the biggest waste man. Look, I'll take you for some garlic bread. I'll take you for a tuna salad. Just when the four was done, I gave them another one. DJ Khaled! So don't think you're bad, cause your man pleased my Instagram. So you got mad, then hit the fan. I hit him up, then I hit the dab. Like, woo! That's it. Don't try talk with your black lips. No. I heat things up like June the 1st. No. I took the crown, Miss Universe. They don't show no appreciation. Keep things short like abbreviation. All these girls are really hating. When their lips look like crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Crispy! Crispy bacon. Your lips look like crispy bacon. Bacon, crispy, crispy bacon, crispy, crispy bacon. Their lips look like crispy bacon. Queen's Speech 5, you know. Sorry for the wait. I dropped my phone in the toilet. Bum bum bum bum, ba dum bum ba dum bum, bum bum bum bum, bum bum bum ba dum bum. Trying to arrange

anche se è un po' datata. Infatti, Beyoncé la scrive nel 2016 a seguito delle violenze successe appunto a Dallas, e dice, lei dichiara: questa non è una preghiera rivolta a tutti i poliziotti, ma solo a coloro che non riescono a valorizzare la vita umana. La guerra alle persone di colore e a tutte le minoranze deve cessare. La paura non è giustificazione, l'odio non vincerà. Riprendiamo adesso con Vera e Giulia. Siete con noi? Sì, ancora? Ci siamo. Eccoci. Eccoci. Proseguiamo con la nostra interrogazione, proprio... Vera. Vera, devi sapere che anche io sono una prof. Sappilo. Sono una prof di arte, però. Cioè, siamo tre prof in puntata, praticamente. Mamma mia, mamma mia. Perché anche Vera, sì, anche sì. Vera è una prof, ricordiamo, docente presso l'Università di Firenze. E siamo... Gioia dice, tutte tranne me, se non la sentite, io dico me quello che ha fatto l'esame l'altro giorno. Esatto. Gioia, tra l'altro. E ha preso? 30? Wow. Allora, torniamo nel vivo dei nostri discorsi d'odio, purtroppo. Cioè, purtroppo esistono, non purtroppo, torniamo nel vivo. E vediamo un po' come questi appunto si declinano sui social network con un'attenzione particolare al genere, quindi nei confronti delle donne in particolare. Sì, ma in particolare delle donne, possiamo anche parlare di genere. Allora, in generale, tutto ciò che non è il genere considerato da molti normale e prevalente, che è quello maschile, no? Non a caso Giulia Blasi, mia amica, molto più femminista di me, diciamo così, nel senso da molto più tempo di me, parla spesso del maschio bianco eterosessuale cisgender di mezza età, come, diciamo, figura normale, no? Tutto quello che non è maschio, non è bianco, non è eterosessuale, non è cisgender, non è di mezza età, devia da una norma, no? Da una cosa sentita come normale, e quindi può essere particolarmente soggetto a discorsi d'odio. Torniamo però un attimo sulla questione social. Allora, intanto io ho sempre qualche remora a considerare i social in maniera distinta dal reale, perché ormai direi che è acclarato, no? È evidente a tutti che noi ci muoviamo in un'oscillazione continua fra online e offline, non direi neanche fra reale e virtuale, perché chiunque abbia preso degli schiaffoni virtuali sa che poi sono virtuali fino a un certo punto, no? Sì. Nel senso che fanno male anche se non arrivano fisicamente. Tanto è vero che Luciano Floridi, che è un filosofo contemporaneo, definisce questa vita che noi viviamo come on life, no? L'on life, che è un misto di offline e online. La concezione dell'online come separata dall'offline è qualcosa di proprio della mia generazione, della generazione X, oppure dei baby boomer, che sono la generazione precedente, perché effettivamente noi entravamo in internet, cioè facevamo una serie di manovre soprattutto dal computer, no? Perché i cellulari all'epoca, quando ero ragazzina io, non c'erano, e per entrare su internet si faceva una specie di accesso fisico alla rete, si accedeva il modem, si componeva un numero, no? E così via. E quindi per la mia generazione e quella precedente funziona molto bene la metafora spaziale, no? E quindi di internet come luogo. Per le generazioni successive, che appunto sono in questa oscillazione costante con internet tutto intorno a te, come diceva Megan Gale per la Omnitel moltissimi anni fa, questa metafora funziona un po' meno, no? E quindi quando parliamo di hate speech nell'ambito dell'online, non stiamo parlando di una cosa diversa dall'ambito offline, però lo hate speech online ha delle sue specificità che sono legate ai limiti o alle potenzialità dei mezzi che noi usiamo online. Prima di tutto, tu Giulia l'hai accennato, la mancanza di fisicità, per cui la parola diventa molto più, intanto è nuda, no? È priva di tutta una serie di tratti extralinguistici che aiutano normalmente la sua decodifica. Per esempio, noi possiamo dire una cosa anche offensiva, ma possiamo dirla sorridendo, certo, e magari battendo, no, una pacca sulla spalla della persona a cui ci riferiamo, e quindi diventa chiaro che anche se io ho usato una parola derogatoria, offensiva, in realtà sto creando una relazione positiva con la persona che ho di fronte. ecco, quella cosa della pacca sulla spalla, del sorriso, del tono di voce, eccetera, online fa più fatica a passare. E ovviamente tutto ciò che noi facciamo online è anche estremamente più pubblico di quello che potremmo fare se fossimo io e un'altra persona, anche in mezzo ad altre persone, ma in un contesto dal vivo, no? Per cui, allora, non so qual è la vostra policy rispetto alle parolacce, cosa si può dire e cosa no in trasmissione. Puoi dire no. quello che vuoi. Ok, no, allora, secondo me non c'è una reale policy. Allora, no, sapete, è sempre meglio chiederlo perché poi ognuno ha le sue, ogni contesto ha le sue regole. No, puoi sbracare, puoi sbracare. Ok, vai, morto. Vai, no, vabbè, scherzo. Ma allora, mio papà, quando era giovane, aveva un amico carissimo con cui vicendevolmente, un amico ungherese, con cui vicendevolmente si chiamavano vecchio coglione, no? Ma era un modo chiaramente affettuoso. Ah, vecchio coglione di qua. Allora, pensate a chiamare mio papà o l'altra persona vecchio coglione, magari su un post pubblico su Facebook, e a come possa essere difficile da parte degli altri, di quelli non appartenenti, no, a quel giro di amicizie, capire che si tratta di qualcosa di affettuoso, no? Quindi dobbiamo mettere in conto questo surplus di difficoltà nel decodificare lo scritto o il detto, prima cosa. Seconda cosa, quando noi ci confrontiamo dal vivo, c'è un momento in cui se io continuo a insultare Giulia, a un certo punto Giulia mi tira una capocciata, no? Sì. Cioè, o fa un atto fisico, mi tira uno schiaffo, no, cerca di chiudermi la bocca, mi tira una testata sul naso, quello che è, si mette a urlare per sovra. Ecco, il problema dell'odio online è che non si arriva mai a questo limite invalicabile fisico, no? Al momento in cui, come dice una famosa scritta su un muro romano, basta Facebook, menamose, no? Allora, il menarse, certo, è la fine di qualsiasi dialogo, ma è anche il segnale che abbiamo superato un certo limite di sopportabilità. Purtroppo a questo limite di sopportabilità non si arriva mai online, per cui uno dei problemi dello hate speech online è che può andare avanti all'infinito, come una specie di tortura cinese. Mm-hmm, e può essere anche molto piccolo. Cioè può essere fatto non di insulti plateali, ma di piccole punzecchiature, che però alla lunga vanno a minare la persona, l'autostima della persona, l'umore della persona. Ne parlava oggi in una serie di storie su Instagram Florencia Di Stefano, che diceva: non è che deve essere sempre un odio, appunto, esplicitato, ma soprattutto, per esempio, nei confronti delle donne, spesso l'odio è qualcosa di abbastanza sottile, che è fatto di battutine, inferenze, piccole cose. Comunque brava per essere una donna, no? Questo genere non è un'offesa esplicita, anzi, apparentemente ti stanno facendo un complimento, no? Sì. Oggi io ho fatto un post contro una categoria di persone che ultimamente è stata molto in cronaca, diciamo così, che sono i saggi anziani, i venerabili anziani, no? Contro i quali non si può dire nulla perché sono anziani e sono venerabili. E alla fine di questo post, che ovviamente era riferito a una cosa particolare, ma si può estendere a molte cose che vedo succedere, no? Che quando uno ha una certa anzianità e una certa riconoscibilità, nessuno gli va contro. Ma e finivo il post dicendo: apposta non ho usato forme inclusive perché sarà un caso, ma la maggior parte dei venerabili anziani sono maschi. E una persona su Instagram mi ha scritto: ecco, vedi, però sono d'accordo con tutto, ma non con l'ultima, con l'ultima frase, da te che sei megafono di tante cose, una cosa del genere non me l'aspettavo, perché si cade nel sessismo, no? Ecco, quel da te non me l'aspettavo, come se io dovessi conformarmi a un'attesa, no? È una roba che, per esempio, nei confronti delle donne viene fatta spesso. Sì, sì, certo. E beh, molto meno nei confronti dei maschi. Non dico che ai maschi non si faccia, però molto, vi assicuro, molto meno. C'è una questione quasi statistica. Vera, da te non me l'aspettavo. Come se non potessi esprimere una tua opinione. Sì, no, come, non so se avete letto le discussioni sulla possibilità che ci sia una premier di sesso femminile. Sì. Se c'è qualcuna di brava e capace, sì. Qual è l'inferenza? Che normalmente noi donne non siamo né brave né incapaci. Cioè, scusate, ma lo immaginate al maschile? Sì, va bene un premier maschio, purché sia bravo e capace. grazie al cazzo, nel senso, mi sembra la base, dovrebbe essere la base, appunto. Però questo discorso si fa sulle donne, perché alla fine dei salmi, e qui rischio di sembrare un po' sessista, ma è vero, le donne devono ancora essere un po' di più, devono dimostrare un po' di più, devono essere più smart, devono essere più capaci, capito? È più tutto della controparte maschile. Sicuramente. Ricordo un articolo un articolo scritto contro di te, Vera, perché vado a leggere tutto, no? Giustamente, in cui venivi accusata di non essere accademica. È come se questa cosa andasse a screditare tutto quello che tu potessi mai dire. Ma certo, ma questo è un grande classico, me lo porto dietro da tantissimo tempo. Io insegno all'Università di Firenze da contrattista, quindi da precaria, ormai da 20 anni. Un paio di anni fa, forse 3 a questo punto, provai a fare l'abilitazione scientifica nazionale, quella roba che ti serve per poi entrare di ruolo all'università. Sì. E avevo già alcune monografie all'attivo, diversi articoli, eccetera, e venni bocciata in maniera abbastanza plateale. La cosa più bella è che il giudizio medio diceva che le cose che io faccio non sono scientifiche. Cioè il fatto di occuparmi fondamentalmente di etnografia della rete, sì, non era da questi signori considerata una cosa scientifica. Una delle persone che mi aveva bocciato, peraltro un esperto di celtico, una roba fighissima, ma se noi Ponti guardiamo quanto. Alla spendibilità sociale anche, no, dello studio delle dinamiche della rete versus il celtico, beh, diciamo che sì. Lasciamo sospeso il giudizio. Lasciamo okay? sospeso però, il giudizio, ecco. Vera, su questo ti assicuro che c'è anche... insegnando alle medie arte, stessa cosa. Il digitale, io che cerco di introdurre il digitale, sì, o anche per dire parlare, ho provato a parlare anche di questo tipo di linguaggio, abbiamo... eppure non passa, cioè sembra che stai parlando di aria, non so come dire. Stai parlando di una roba che non è tangibile, e quindi soprattutto da parte di chi non la vive, sì, questa roba. Non conta, no? Però allora credo che ormai sia abbastanza chiaro che non basta la carriera accademica, cioè ovviamente vorrei aver fatto o fare carriera accademica, ma ciò nonostante non vivo nella sensazione di valere meno perché non ho fatto quel passaggio lì, semplicemente mi sono trovata una nicchia in un posto diverso. Quando qualcuno mi scredita perché non ho una carriera accademica, perché sono una donna, perché ho i tatuaggi, perché dico le parolacce, perché dico l'inglese, cioè a un certo punto vale sempre la regola di zero calcare, no? Quella nella famosa vignetta che io cito sempre, che è i litigi sul web, che lui conclude con hashtag ma chi te se incula. Cioè a un certo punto uno deve anche veramente imparare a farsi scivolare di dosso. Ci sono poche cose sulle quali penso di avere una preparazione decente, non ottimale ma decente. Quando parlo di quegli argomenti lì sono abbastanza convinta, quindi, delle cose che dico. Sono assertiva, che spesso chi ho di fronte scambia per arroganza o petulanza, ma semplicemente sono assertiva e ti vengo sotto perché mi sono fatta un gran sedere a studiare certe cose, e quindi su certe cose vado tranquilla. Ovviamente non parlo di astrofisica, non parlo di virologia, no? Non parlo di cose che non conosco. Però quando mi vieni a imbarare l'italiano, tra virgolette, o a spiegare come funzionano i neologismi, o a spiegare perché è sbagliato chiamare le donne che lavorano al femminile, lì ti rispondo per le rime perché sono le cose che ho approfondito. Aggiungo una cosa sull'odio online. Col fatto che non ci vediamo in faccia, è molto più facile generalizzare l'odio e odiare la categoria, no? E quindi scagliarsi contro, mi capita sempre più spesso, le femministe. E peraltro le femministe appartengono a moltissime correnti diverse, quindi dire le femministe vuol dire poco, esattamente come dire le donne. Cioè le donne possono essere di tutte le forme, attitudini, no? Non c'è la donna, no? Non c'è una donna, come... diceva Michela Murgia, no, con lo hashtag, no, in corsa per essere eletta, non mi ricordo che carica, Pinco, Pallino e una donna, una donna. No? Cioè noi siamo una donna, di hashtag una donna. uguali a tutti. Esatto. E è facile quindi odiare i neri, i cinesi, i migranti, i le persone con disabilità, le persone, non lo so, gli autistici, i matti, le persone transgender, gli omosessuali, perché sono una categoria e non li vediamo in faccia. È molto diverso quando poi tu ti trovi di fronte a un rappresentante di quella categoria e improvvisamente vieni come riconnesso con la sua parte umana, no? Non è più una categoria astratta, ma è qualcuno che stai guardando negli occhi. È per questo che molte persone estrinsecano un'aggressività molto maggiore online, perché non c'è l'impiccio di guardare l'altro negli occhi e non c'è l'impiccio di beccarti uno sganassone, anche direi. Sicuramente, sicuramente. A proposito, io direi che possiamo introdurre la canzone successiva che è stata trovata appunto dalla nostra grandissima Lady J. E questa canzone ha un titolo che dice tutto. Adesso lo diciamo in inglese e poi lo traduciamo. I wrote a song using only hate comments. Aspettatela, cioè, ripeto, perché Giulia sei andata un attimo... D'odio. Giulia? Sì. Fermati perché non si è sentito il titolo. È okay. I wrote a song using only hate comments. Ok, sì. Di, abbiamo detto, Madeline Bailey, ok? Sì. Scusate. E poi dicevo anche la traduzione per questo. Esatto, coloro che vai. Non masticano l'inglese. Ho scritto una canzone usando solo commenti d'odio. Sì, infatti lei dice che dopo 10 anni su YouTube ha accumulato un'impressionante base di 7 milioni di iscritti. I suoi video sono stati visti quasi 1 miliardo di volte, rendendo la 27enne una delle cantautrici più popolari sulla piattaforma. Tuttavia, in tutto questo tempo ha anche ricevuto lei molto odio, molti appunto commenti d'odio sulle sue pagine, sui suoi video, alimentati dalla gelosia, dal disprezzo e quant'altro. Lei ha deciso di, come grande performer, perché ci tengo a dirlo, però lei è proprio una performer, lei raccoglie tutti questi commenti e fa una canzone che poi in realtà viene rifatta altre 3 volte. Sempre con tantissimi commenti che le sono stati fatti. Quindi a voi, sentiamola, ascoltiamola. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Gigala this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when I'm confident. You say I am pretty, well I say I'm beautiful, it's my committee. Say we're too provocative, still look at me, look at me, look at me. Ah, come for my girls, shout out to all my haters. You're starting to look like a heroin addict. No offense. You're 1% good at singing. No offense. Stop, please. Ah, poison for my ears. Have you ever considered to get breast implants? No offense. Stare at deformity in your lips. No offense. Stop, please. You are destroying everything. Sorry. But na na na na na na na. No offense. You ruined this, just my own preference. Na na na na na na na. No offense. Wish you would quit. This sounds like shh. No offense. One, two, three. I miss the old you, I hate the new you. Too much auto-tune, out of tune. You look like a cartoon. No boobs, knuckle to the contrast. Did they use super poop, super pale? Personally, I hate your hair, boo. Ooh, you suck. This one makes me throw up. Yeah. Suggestions, singing lessons. Na na na na na na na. No offense. My ears rip. hate this, no offense. I could use the amount of foundation on her face for 1 year, no offense. Your voice is so weird, you should stop this career, no offense, no offense. You look so white, your hair's getting everything, it makes you look scary, no offense. No, no, no, no. But na, na, na, na, na, na, na, no offense. Oh, it's just my preference. Na, na, na, na, na, na, na, no offense. No offense, but this sounds like shh. No offense, but you kinda did it wrong. No offense, girl, but you just upped the song. No offense, but Madeline is way too dramatic. No offense, but I cringe the whole way through. No offense. No, no, no, no, no, no, no, no offense. No offense. Song that I wrote using only hate comments from YouTube, and after 10 years of being on YouTube, I would say I've accumulated a lot of hate comments, so thank you to all my haters for helping me write that song. I did blur out the usernames and the pictures. I don't want to perpetuate more hate with this video. This is just kind of a way to make fun of the troll culture that exists online and to make something positive out of something that's otherwise negative. Anyway, thank you for watching. I don't know what else to say. Thumbs up. So that's something you're supposed to say. 10 years on YouTube and I don't even know how to end a video. Abbiamo un nuovo link. Beh, comunque podcast. Si è capito che c'è stato uno sbaglio nel mettere la canzone. Ci scusiamo. Sì. Mi scuso. C'è stato uno switch tra le canzoni. Sì, non ha funzionato. Infatti, Giulia, perdonami, lei adesso mi odierà vita, questo lo so. Io sto usando tutti due microfoni per parlare perché non so quali funzioni. Ragazzi, che disagio. Ma se infatti siamo le ribelli, senza questo non lo saremmo mai. È troppo divertente, ok? Questo... Comunque vi volevo leggere soltanto un pezzo, cioè per chi magari non mastica bene l'inglese, vi dico soltanto l'inizio di questa canzone in italiano, così almeno capiamo un attimo la genialità di questa performer. Dice: sta iniziando a sembrare un eroe Madeline. Senza offesa, sembrava all'1% a cantare, senza offesa. Fermati. Ah, veleno per le mie orecchie. Hai mai pensato di sottoporti a... protesi mammarie? Senza offesa. C'ha una deformità sulle tue labbra? Senza offesa. E è bello perché continua a ripetere questo senza offesa. Certo. Che appunto un po' mi... molto mi... d'impatto. Esatto, questo... che poi oggettivamente viene anche utilizzato molto sui social, nei commenti, questo senza offesa, un po' in tono senza ironico. Senza offesa, ma... un po' per ritornare a quello che dicevamo prima, no? Che si vuole sempre un po', appunto, con questa distanza, non... è facile, ecco, è molto facile, e ci si nasconde e poi si vuole sempre rimanere un po' distanti da quello che si è appena fatto, magari. Sì. A proposito, ringrazierei adesso Vera perché, insomma, quando ci siamo sentite le ho chiesto se era disponibile a raccontarci la sua esperienza personale, perché anche lei è stata ed è vittima di hate speech, soprattutto io ho letto parecchi commenti sotto i video di YouTube, video di TEDx, ma non solo, e quindi volevo chiederti appunto se ti andava di raccontarci un po' cosa significa, qual è stato per te l'impatto di questi commenti e cosa significa conviverci anche con questo tipo di linguaggio. Allora, premettiamo una cosa: nel momento in cui ci si espone, mm-hmm. in qualsiasi senso della parola, ma cioè, si iniziano a portare sulla in pubblico delle opinioni ben definite, è abbastanza ovvio che non si possa piacere a tutti, no? E questo è qualcosa di molto lapalissiano, di banale, però allo stesso tempo qualcosa con cui occorre fare i conti a un certo punto della propria vita, perché moltissime persone, tra cui io, vorrebbero un quieto vivere, no? Vorrebbero vivere in un mondo in cui tu più o meno, se non fai cose sbagliate, piaci a tutti. Quindi mi comporto in un certo modo, seguo certe regole sociali di comportamento e in cambio ricevo del bene, no? Non del male. Ovviamente non è così, cioè lì fuori è pieno di persone appunto aggressive, amareggiate, scottate, per esempio molto dell'odio di genere, ora parlo di quello nei confronti delle donne perché essendo donna io, ma la stessa cosa si può, lo stesso discorso si può fare appunto su tutto ciò che non è normale, come avevamo detto all'inizio, dipende anche moltissimo da esperienze personali, cioè ho alcuni conoscenti quasi sul crinale della misoginia, direi, no? E quindi anche se loro dicono no, ma io le amo le donne, no? In realtà si capisce che hanno dei problemi di relazionali proprio con l'altro sesso e quei problemi relazionali personali diventano un po' qualcosa di generalizzato, no? Cioè è colpa delle donne se tutte le donne sono in un certo modo, di solito non un epiteto positivo. Allora, quello che è successo quando io nel 2018 ho in rapida successione tenuto 3 conferenze TEDx è stato ovviamente di suscitare anche una grande invidia, no? Perché per molte persone, ma anche per me, poter essere invitate a una conferenza TEDx, che non sono TED, cioè sono eventi indipendenti organizzati sotto l'egida del marchio TED, ma non è TED vero e proprio. È un grande onore, cioè io sono stata onorata di avere fatto questi interventi. Ovviamente sapevo anche che mi avrebbero dato una visibilità molto maggiore del mio contesto normale, no? Perché lì uscivo da un contesto specialistico per andare in un contesto molto divulgativo e molto spendibile online, no? Perché poi queste cose finiscono su YouTube, sono conferenze di 10, 12, 15 minuti e quindi è un taglio, una lunghezza che ben si presta alla condivisione social. Ogni tanto, ancora adesso, ora è un po' che non lo faccio dopo l'ultima ondata perché poi ti spiego perché, andavo a vedere i commenti. Considerate che non ho messo io, non ho caricato io questi video, ma la piattaforma TED, per cui io non posso, non vedo come persona che ha caricato, non essendo la persona che ha caricato il video, non vengo automaticamente avvisata dei commenti, no? Quindi a meno che non mi nomini, non lo vedo. E allora, se io vado a leggere i commenti, ovviamente tutte le volte ci rimango male, chiaramente c'è una fetta di persone a cui la cosa non è piaciuta e lo dicono, anche perché non hanno la sensazione che io poi possa rispondere dall'altra parte, no? Quindi commentano il video come commenterebbero un programma televisivo, con l'idea che la persona dall'altra parte non può replicare. Ma andando a leggere un po' meglio i commenti, la cosa che mi ha stupito è che moltissimi hanno a che fare con la mia voce, cioè con il tono della mia voce, che secondo molti è fastidioso perché stridulo, e quindi c'è anche chi mi consiglia di operarmi alle corde vocali e altre cose del genere. Che carini. E poi c'è tutta una serie di persone che ha da ridire sul mio abbigliamento, no? Sul fatto che avessi i tacchi, sulla collana che avevo al collo, sull'aspetto, sull'età, no? Insomma, tutta una serie di cose interessanti. E soprattutto quella del tono è interessante, perché in realtà, molto spesso, quello che mi viene imputato è di avere una voce, a parte stridula, ma aggressiva, di avere un tono di voce aggressivo, di avere un modo aggressivo di dire le cose. E quindi molti dei commenti sono del tipo, senza offesa, appunto, ma potresti bere un bicchiere di vino prima di salire sul palco, così magari saresti meno aggressiva. Senza offesa, ma forse potresti fare dello yoga, perché se vai avanti così ti viene un infarto. Senza offesa, ma io non la vorrei mai come moglie. Anche questo è interessante. Tra l'altro lo stesso signore poi si è preoccupato di, sotto altri video, perché questa è una specie di stalker, ha anche voluto dirmi che non mi vuole neanche come madre, mm-hmm. E neanche come docente. Quindi ha fatto tutto un insieme di... Parla, una cosa è certa, non vorrei che fosse mia moglie. Poi c'è anche chi mi ovviamente presume che io non scopi, risolveresti un sacco di problemi con del sano sesso. Vabbè, no? Sicuramente. Ovviamente le stesse persone che mi accusano di non scopare sono anche le stesse che mi danno della zoccola, il che crea anche una... cioè, c'è un po' di confusione. Ma è una cosa che si ripete spesso, eh? Cioè la donna è contemporaneamente zitella e prostituta, no? Ha contemporaneamente il problema di non scopare abbastanza e di scopare troppo. E questo la dice lunga anche sulla visione, no, che queste persone hanno della donna. Questa, vi leggo un altro commento. Questa simpatica signora vomita addosso alla gente cose inutili. Non vorrei che fosse mia madre. Somiglia di più a un'infermiera dell'SS. E poi, riferito agli altri che magari avevano da dire su questa opinione, non ve la prendete così a cuore. Ci sono tante opinioni diverse nel mondo, no? E qui ci arriviamo alla... supposta libertà di opinione che hanno tutti. Evidentemente sono le stesse persone che dicono basta con questo eccesso di politicamente corretto, ormai non si può dire nulla, no? Cioè, neanche questo, vabbè. No, ma tu non sei aggressiva, sei una fallita, magari, che l'unica cosa che puoi fare a 60 anni sono questi video. Mi dà, senza accento, brutte vibrazioni questa signora. E non leggerei un suo libro nemmeno se me li spedissero a casa. Queste sono cose scontate, antiche. Scommetto che nessuno l'ha mai leccata a questa. Per fortuna non è mia mamma, spero che si faccia un'operazione alle corde vocali e che la smetta di inquinare Ted con queste cose. Comunque le faccio i complimenti per essere riuscita a diventare famosa con una serie di boiate, brutta espressione anche questo, usa il pene. Vabbè. Una tipa esaurita, vera che non vai a cagare, vabbè. La lingua è un atto di libertà e ci fanno anche conferenze su cose talmente ovvie, a meno che non sei un idiota, non lo ascolto nemmeno tutto, talmente tutto prevedibile, no? Tutto attaccato. E così via. La cosa, ecco, tornando sulla questione del tono, c'è una cosa che viene spesso usata contro le donne specificamente, che è sì, ma non gridare, non avere la voce stridula, sì, ma non dire parolacce, sì, ma non essere così aggressiva. Ed è una cosa che si chiama tone policing, cioè fare i poliziotti di tono. Stranamente, è un'altra delle cose che viene fatta soprattutto nei confronti di donne, perché c'è un'attesa sociale nei confronti di come dovrebbero esprimersi le donne, che presume che noi siamo comunque più educate, più gentili, meno aggressive, meno assertive e così via. E questa roba viene contrabbandata per naturale, cioè io non sono del tutto donna perché ho la voce stridula e quando parlo sono aggressiva. A un uomo questa cosa dell'aggressività viene imputata molto meno, anzi l'aggressività fa galla del pollaio, quindi certo. No? È una cosa figa. Cioè il tone policing viene applicato soprattutto alle donne, lo dice spesso per esempio Irene Pacheris, non so se avete presente, lei nel suo palinsesto femminista lo dice spesso, cioè, le donne sono vittime di un tone policing continuo. Quindi attenzione, perché io ho la stessa libertà di incazzarmi, di gridare o di ribadire con voce grossa le mie idee quando sono sicura delle mie idee, esattamente come un uomo, ma non per dimostrare qualcosa, ma perché ho tutto il diritto di incazzarmi e anche di usare le parole che le donne non dovrebbero usare. Cioè tutto il mio intervento a Erosive a Verona era tutto incentrato sul fatto che noi donne ci dobbiamo anche riprendere la libertà di usare alla bisogna le parole disdicevoli, perché siamo abituate un po' naturalmente, un po' socialmente, che noi certe cose, no, cazzo, non le possiamo dire. E questo mi fa venire in mente la scena, cito anche qui la scena con cui ho aperto Erosive a Verona, che è quella del grande Lebowski, in cui c'è Maud Lebowski che volteggia sopra al protagonista Lebowski, a un certo punto si ferma e fa: signor Lebowski, le dà fastidio se pronuncia la parola vagina? Lui ovviamente casca dal pero, non capisce, che fa il tutto tonto un po', no? Già innamorato di lei. E lei dice no, perché sa, molte persone, molti uomini sono a disagio quando una donna usa la parola vagina o la parola pene, e preferiscono che si usino tutta una serie di circonlocuzioni, no? La pagianina, la passerina, quello che è, l'importante è non usare la parola vagina. No, come noi non diciamo mai mestruazioni. No, assolutamente. Il ciclo, il marchese, siamo in quei giorni lì, le rosse, la rugiada, no? la rugiada. La rugiada, abbiamo la rugiada. La comunque in Ungheria e io l'ho scoperto a mie spese, nel senso che eravamo al lago Bolodon, eravamo al mare con le mie cuginette, più o meno tutte in età da menarca, e da menare anche, e mia cugina, una delle mie cugine, quella più vicina a me per età, mi fa: no, non posso venire in acqua perché sto festeggiando. E così ho scoperto che uno dei modi, uno degli eufemismi ungheresi è in paletto, appunto, sto festeggiando, che vuol dire ho le mestruazioni. È stato un bellissimo momento. Bellissimo. Bello, però. Però può anche creare parecchia confusione, quindi. Ma e sai, se tu lo sai, è come quando a me qualcuno dice ho le rosse, in che senso? Oppure ho il marchese, in che senso c'è il marchese? Che sei a Bridgerton, c'è il marchese? Almeno avessimo tutti i marchesi di Bridgerton. Era un duca, quello è un duca. Ah, giusto, duca. Era il duca. Adesso il gran figliuolo del duca, sì, va bene. Riprendiamoci un attimo, mettiamo su qualche pezzo e ci ritroviamo qua tra poco. E a voi, Strip, in featuring con Shariah J, Little Mix. Give up, I'm over it. Gigala this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when I'm confident. You say I am pretty, well I say I'm beautiful, it's my committee. Say we too provocative, still look at me, look at me, look at me. Come for my girls, you blind. Daily mirror, my yellow noche. I don't know you nothing, now I don't give a not none anymore. If you got little boobs, love it. If you got a big ass, grab it. If you got numb, big rugged, get your life go, get it if you want it. Up in the mirror like, oh yeah. Loving my figure like, oh yeah. When I'm slimmer, I'm thick, I'm like, oh yeah. Swear I'm making them like, ah. Strip, take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over. Strip, jiggle all this way, yeah. You know I love all of this. Finally love me naked, sexy as when I'm confident. Strip, it's good anymore. My body out of control. Strip. Baby, I know that you love. I don't want my heart. Strip. Gotta do what you want. If they love it or they don't. Strip. I know you already fucked. So take it off. Strip. Love who you wanna. Don't give a damn, it's a man or a woman. Wanna talk about color. It's the skin that I'm in, yeah, I get from my mama. I'm a woman, don't test me. Baby, I'm growing, my stretchers are sexy. I don't know you nothing. Nah, I don't give a, nah, not anymore. If you got little boobs, love it. If you got a big ass, grab it. If you got long, baby, rock it. It's your life, go get it if you want it. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Chigala this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy as when I'm confident. Strip, it's good anymore, my body out of control. Baby, I know that you love, I don't want my heart. Gotta do what you want, if they love it or they don't. I know you already fucked. First of all, you gotta love who you are. Don't let social media tear you apart. HBIC, I'm head Benji in charge. I'm ready and I got 100 bars. I don't care if you got 100 cars. I don't care if you got 100 mil. Cause even if you had 100 deals, that money won't buy you what confidence will. Skirt, pull it with the drip. The drip. Got juice. Take a sip. I'm so serious. Lil mix in the mix, period. Still a cover girl, even with no makeup. Live your best life, even with your A cups. I ain't gotta act, I just gotta be me. Put me on the track, I'ma ride like Kiki. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm confident. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy as when I strip. I'm more than the color of my skin. I'm a girl that likes to sing. All I know is what's within. Not just a brown girl in the ring. Go to school and learn their ways. Told how to think and what to say. While my mother says to pray, I pray for better days. God, please help them see. They ain't no different from me. Not above, not beneath. Teach them equality. I'm not just a brown girl in the ring. I'm a girl that likes to sing. I'm not just a brown girl in the ring. I'm a girl that likes to sing. What they think of me, more than the color tones that they see, more than urban R&B, more than the slang that I speak. Close your eyes, don't say a word, don't speak about what you see nor heard. Let's pretend that it's okay, just the way the devil likes to. Look in my eyes, look in my eyes. I can't lie, I can't lie. All these years of my life, I'm judged from the outside. I'm not just a brown girl. E rieccoci, questa era Brown Girl di Aradhana. E rieccoci qua con Vera e Giulia e Gioia, sempre qui, ogni tanto ci prova a salutare, ma non ci riesce mai. E Vera, Giulia, di che cosa stavate parlando? Scusatemi. Stavamo discutendo di argomenti profondissimi. Alti. Sì. Del bosone di Higgs, stavo parlando del bosone di Higgs. No, in realtà stavamo parlando anche abbiamo fatto un'analisi serissima di questa serie Netflix, Bridgerton, che consigliamo di vedere perché sotto i discorsi superficiali che a prima vista possono apparire, in realtà è una serie molto... molto, molto bella e importante da vedere perché ci sono dei messaggi importanti su appunto l'educazione delle ragazze, le possibilità delle donne, eccetera. Quindi ci siamo concentrati. Ripetiamo il titolo? L'analisi. Ripetiamo il titolo della serie? Bridgerton. Bridgerton, ok. Cercate perfetto. Tipo Bridge, tipo il ponte. Bridgerton, scritto così, Bridgerton. Vabbè, no. Su Netflix. Ma... No, ma ne parlano tutti anche qua. Sì, Vera fa quello sì. Che noi non vogliamo fare. Esatto, quindi consigliamo il film per vedere i messaggi nascosti. Bene, tornando ai nostri discorsi invece d'odio, volevamo fare un'ultima riflessione su quelli che sono invece i media, chiamiamoli tradizionali, chiamiamoli così, quindi i giornali e la televisione, cioè queste cose che abbiamo detto riguardo ai social network. Si possono ritrovare, cioè si ritrovano anche in questi media tradizionali? Sì, la differenza è la quantità di persone che ha accesso al megafono in questo o in quel contesto, no? Per cui i social media in un certo senso riproducono la piazza, la realtà, come diceva Umberto Eco, anche il bar, no? Cioè se ci fermiamo prima degli imbecilli, la metafora del bar ci sta, perché abbiamo degli spazi di discussione molto destrutturati, molto, molto tranquilli, dove uno alla fine può dire, tranquilli per modo di dire, tranquilli come regole, no? Laschi, per cui lì ognuno di noi può andare e dire tutto ciò che pensa, o quasi, casomai poi ci sono delle conseguenze, confronta Trump, ma insomma prima di arrivare a violare i termini della piattaforma ce ne vuole, cioè non è così facile essere bannati, bisogna impegnarsi un po' oggettivamente. Fate conto che io ho segnalato molti dei commenti che vi ho letto, nella stragrande maggioranza dei casi sono ancora lì perché secondo la piattaforma non sono offensivi, cioè il fatto che mi si dica che devo scopare di più non è offensivo, capito? Per cui se c'era la parola con la N, quella sicuramente la levavano, perché, perché molto spesso i filtri online agiscono su base algoritmica, no? Per cui ci sono delle parole vietate, ma noi esseri umani siamo bravissimi a offenderci con tutte le parole più belle dell'universo. Sicuramente, quindi, lì sì che no? Si trovano i sinonimi. Porca miseria che si trovano, lì c'è la ricerca dei sinonimi incredibile. Signorina Giulia, no? È esatto. Già questo. Okay. Signora Vera, ci signora dico. Vera, esatto. Questa signora, no? Che cioè, siamo a un passo da dire questa zoccola immonda, però diciamo signora... E però si capisce benissimo che è offensivo uguale. Vabbè, quello che succede in TV, in radio, sui giornali è che la selezione all'ingresso è più stretta, no? Per cui meno persone hanno la possibilità di far sentire la loro voce in questi contesti, il che porterebbe a pensare che la situazione è migliore, cioè che si trova meno odio. Non è esattamente così, perché poi anche gli opinion leader, i politici, i conduttori, i giornalisti sono capacissimi di lanciare messaggi d'odio, molti di loro lo fanno, abbiamo degli abitué del messaggio d'odio, no, non occorre che faccia i nomi perché non vogliamo querele, ma sono degli abitué, alcuni sono addirittura direttori di giornali, e quindi non è assolutamente strano trovare su un giornale o in un programma radiofonico o in un programma televisivo un slur, no? Cioè un'uscita d'odio. Dopodiché secondo me, ci sono gli ismi impliciti, no? Per esempio, se una donna lavora in televisione, non le si perdona il non essere figa e il non essere tirata al lucido, no? Per cui tutto ciò che si discosta dall'immagine del corpo perfetto che ci aspettiamo, in televisione non va bene. Cioè, solo occasionalmente possiamo vedere la donna che non corrisponde ai canoni di bellezza tradizionali. Tanto è vero che, per esempio, Michela Murgia molto spesso quando fa le comparsate in televisione poi viene offesa per l'aspetto fisico, no? Oppure, ricordiamo il caso di Giovanna Botteri, che il cui problema non è essere o non essere una brava giornalista, ma è andare in onda senza la messa in piega. Esatto. E queste sono forme di assurdo. Odio forse meno esplicite di quelle che uno si potrebbe immaginare, ma fanno altrettanto male e sono... come si può dire, la cartina di tornasole di un modo di pensare che è ancora intriso di ismi, no? Per cui l'omosessuale in TV molto spesso è ancora la macchietta, per non parlare della persona transgender, no? Ultimamente c'è stato un caso almeno di intervista a una donna transgender che si è ritrovata poi oggetto di una macchiettizzazione, no? Per cui era rappresentata come il classico donnone trans, passatemi il termine, no? E quindi ecco, sì. Sulla normalizzazione della, sull'accettazione delle differenze, delle diversità, sulla normalizzazione della diversità anche sui media tradizionali occorre ancora lavorare tantissimo. E in questo i giornalisti e le giornaliste hanno un ruolo molto importante, che spesso però non disattendono. Cioè abbiamo tutta una serie di carte, di manifesti che non dico che prescrivono, ma almeno consigliano come parlare di certe cose, no? Per esempio delle persone transgender, delle donne, dei femminicidi, no? E tutto il resto, e quasi sempre queste carte vengono disattese. Ogni volta che c'è un femminicidio, a ridanghete che si riparla di troppo amore, di, no, di lui voleva, lei voleva lasciarlo, no? E qual è l'inferenza del lei voleva lasciarlo? Beh, allora lui tutto sommato ha fatto bene a farlo fuori, no? Oppure mi ricordo una descrizione di un po' di tempo fa, come erano stati trovati i cadaveri, no? Allora, lui uccide lei e poi si ammazza stendendosi sopra di lei, come se volesse fino all'ultimo difenderla. Ah, oh, ma l'ha appena ammazzata, ma di che stiamo a parlare? Sì. No, allora questa romantizzazione, questa romanzificazione, no, del femminicidio è un'altra delle cose da cui ci dovremmo guardare, ma non è l'unica, Cioè, l'insistere di chiamare col dead name una persona transgender, il dead name è quello precedente alla transizione, no? Mm-hmm. Quindi se io da domani voglio farmi chiamare Mario e tu insisti a fare... Ecco, sì, contro l'odio, per resistere all'odio c'è molto da fare su tutti i media, mm-hmm. Cioè non è una cosa solo dei social. Sicuramente, ok. Allora, io direi che per... lanciare un messaggio anche di speranza da questa puntata, chiederei ad Andrea di dar voce a un testo che tu, Vera, ci hai consigliato, preso appunto dal libro che citavi all'inizio di Federico Falloppa, hashtag odio, manuale di resistenza alla violenza delle parole, dove lui appunto parla di come bisogna comportarsi con le vittime di discorso d'odio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a questa mia premessa, altrimenti Andrea puoi dare voce a questo testo per prima noi. Vi mettiamo su un pezzo e poi ve lo leggo in diretta, va bene? Allora, okay. Per voi mettiamo Like a Dog di Carta Contact. Don't you wanna free? fondamentale è quindi che il contatto con la vittima non diventi una meccanica formalità, che chiunque vi si relazioni, assistente sociale, operatore di servizio pubblico, educatore, psicologo, funzionario di polizia, giornalista, sociologo, medico, avvocato, eccetera, sappia innanzitutto ascoltare, capire testo e contesto del suo racconto, riconoscerne bisogni ed esigenze, chiedere a sua volta aiuto se non è in grado, da solo o da sola, di prendersi cura della persona che ha di fronte. La vittima va accolta. Decisivo è in questa fase il primo colloquio, che deve servire a valutare la sua situazione personale e capirne le necessità immediate. Per avvicinarsi al suo vissuto occorre invece concordare tempi e modi con lei. Del paternalismo, degli intrusi, non saprebbe che farsene. Ha bisogno di aiuto la vittima, dell'aiuto giusto, e chi la sta ad ascoltare deve essere consapevole delle proprie competenze, quanto dei propri limiti. Limiti culturali, come i pregiudizi e gli stereotipi che possono interferire con l'ascolto, con la valutazione della testimonianza. Limiti linguistici, come la presunzione di aver capito tutto subito, di non aver bisogno di un interprete, di potersi disinteressare del linguaggio non verbale, di poter sottovalutare la dimensione pragmatica della comunicazione. La vittima vuole piena attenzione, occorre ascoltarla senza esprimere giudizi, registrarne le parole, rispettarne pause e silenzi, controllare la propria emotività e non rispecchiarsi nel suo vissuto, essere simpatici più che empatici, sapere che nei suoi panni non ci si potrà mai veramente stare, sentire. Si eviterà così di banalizzare la testimonianza, metterne in dubbio il racconto. Sarà andata proprio così? Fingere? Ti capisco, sai, normalizzare. Succede a molti, colpevolizzare. Mai pensato alla tua famiglia? Respingere. Provi a recarsi al di là, perché non trattiamo questi temi. E questo era il testo di Faloppa, che era appunto hashtag odio, che ha appena presentato Vera. Vera? Sì. Giulia? Ci siete? Sì, ci siamo. Sì, abbiamo ascoltato, ci siamo mutate per non avere rumori di sottofondo. Perfetto. E con questo chiudiamo. Siamo in chiusura. Sì. Abbiamo terminato. Sì, volevo ringraziare moltissimo Vera per essere stata con noi. Sicuramente un invito da questa puntata è un po' per tutti stare attenti a non cadere nell'odio generalizzato, quindi fare innanzitutto un lavoro su se stessi, prestare attenzione sicuramente anche sempre alle parole che usiamo in qualsiasi contesto. Non so Vera se vuoi aggiungere qualcosa. Voto Antonio, no scherzo. No, io chiuderei con due parole chiave, due parole che peraltro sottolinea sempre anche Faloppa nel suo libro, che sono uno, consapevolezza di come usiamo le parole, e due, responsabilità. Cioè, le parole che ci escono dalla bocca o dalle dita, quando scriviamo o digitiamo, sono nostra responsabilità. E quindi facciamo i conti con la possibilità di sbagliare, la possibilità che ci si tappi la vena e che diciamo una cosa indicibile, la possibilità che offendiamo il prossimo, e di conseguenza una cosa su cui dobbiamo lavorare è la capacità di chiedere scusa. Non scusa se per caso tu ti sei sentita offesa perché... No, scusa e basta. Cioè, una cosa che dobbiamo imparare a fare è chiedere scusa senza se e senza ma, sapendo che tutti sbagliano, no? E quindi questo vale da entrambe le parti. È inutile fare, come dire, le crociate contro chi ha sbagliato, perché è una cosa molto umana, no? Errare humanum est. E dall'altra però la stessa cosa, la stessa indulgenza abbiamola anche nei nostri confronti, no? Quando siamo responsabili delle nostre parole, diventiamo anche più capaci di chiedere scusa alla bisogna. Bisogna un po' esercitare il muscolo della scusa. Perfetto, grazie mille. Grazie tante. Grazie, Vera. Ciao, mille, Laura, grazie. Ciao. Io ricorderei ai nostri ascoltatori, ascoltatrici e tutto il mondo che sempre per raggiungerci e per rivedere contenuti, per curiosità, per contattarci, per scriverci, contattarci sulla nostra pagina Instagram, le-basso-zam, ma soprattutto tenere anche come punto di riferimento il sito di ZAM, zam-milano.it, perché da lì potete accedere non solo a tutte le iniziative della radio, ma anche a tutti i podcast. Infatti dal sito si può accedere alla sezione podcast Le Ribelli e anche ascoltare tutte le puntate precedenti e riascoltare questa. E ci trovate ci trovate anche su Archive, appunto, sono sì. collegati per riascoltarci. Va bene, vi salutiamo e grazie di averci ascoltato. Alla prossima puntata di domenica, il nostro appuntamento settimanale, sono le 18:37 e buona serata. Ciao. Nice to meet you. My name is Rehne De. Subha se fussy tie, dhili kar ab kehne de. Har koi mood tha ke banta famous, banta cool. Sab kuch hashtag sponsored, kuch to reality rehne de. Oh, I almost didn't see you, such a stupid username. Jiske piche chupke himmat teri khelti hai games. It's crazy how much you care about me and what I do. It's okay, aisa hota hai when your life is so lame. It's cute that you think you're funny. Sell out, all you do is so money. Tell this and that, how to blah blah blah blah. We've got the woman, honey. Chabhi chahe to karna to kar le. Tu akela nahi, kahi sare chal re. Tere jaise dedication ho comments mein, usse hi to mere sare videos chal re. No offense, shake it, bhaag nahi ban jayega. No offense, shake it, chup nahi paega. No offense, wali baatein sari karke. No offense, aur tu bach nahi paega. No offense, shake it, bhaag nahi ban jayega. No offense, shake it, chup nahi paega. No offense. बेटा बड़ा उड़ रही हो तुम जरा बैठ जाओ दुनिया पे नहीं तो कम से कम खुद पे रहम खाओ ड्रीम बिग गेट अ जॉब सारी कहने की है बातें लड़की हो तुम लड़कियों जैसी ही पेश आओ आई एम गॉड वाली एटीट्यूड है तुम्हारी कब तक भागोगे सब देख रही है माता रानी Must be nice to live a life to always get your way. कहीं ये quality से fuck के हाथ में तो नहीं आ रही. Got a degree, who's gonna pay? What do you mean? Why? 'Cause you got no. नारे feminism के सारे. What's wrong with being realistic? You're lucky 'cause you're born a boy. That's it. साथ साथ बड़े आगे तुझे नहीं रहा देख. The standing ovation ये मारूं मैं ताली. It's your biggest accomplishment. It's your. No offense, shake it, bhaag nahi paega. No offense, shake it, chup nahi paega. No offense, wali baatein saari karke. No offense, aur tu bach nahi paega. No offense, shake it, bhaag nahi paega. No offense, shake it, chup nahi paega. No offense, wali baatein saari karke. No offense, aur tu bach nahi paega. Romeo Juliet ki ek kahani main sunaun. It's the way God intended, even then, even now. Mia, Bibi, Nar, Nari, see a pattern, get the story? Genderless love wali bakwas na banao. Kahaniyan suni badi, zara life bhi to jilo. Dawai se pehle ek good common sense ka bhi to pilo. Diagnosis ye mahan, tum sunate usse pehle doctor saab. Doctor wali pehle degree bhi to le lo. Sacha pyar na bimari hai ye maan le. Parinaam internet ka hai jaan le. Sabko yahan chahiye attention, chhod beta sab ja padhai pe tu dhyan de. Na judge na kon se bhi business. Suno aunty, it's none of your business. Chalo mana nahi zyada hai samajh mujhe, but I know that it's not a sickness. No offense, shake it, bhaag nahi ban jayega. No offense, shake it, chup nahi paega. No offense, wali baatein saari karke. No offense, aur tu bach nahi paega. No offense, shake it, bhaag nahi ban jayega. No offense, shake it, chup nahi paega. No offense, wali baatein saari karke. No offense, aur tu bach nahi paega. So hold up. Let me get something straight. This is the real deal and not clickbait. In a world where we could hug, we could kiss and smile, we choose not to love but to hate. I'm a needle in the hay, I'm a single sunray. I'm a father, I'm a sister, I'm a band-aid on your blister. I dream to wake up to a day, and I will, when I'll be more than a hashtag or a social media drill. With a smile for a smile and a heart for a heart, evolution of a new mankind will start. No shapes, no sizes, no colors, no faiths. No wars, no judgments, no guns, no hate.